C'è la grande tentazione di cercare a tutti i costi il successo. Tu ricorda per te stesso meglio essere un uomo di valore. Ormai si crede che il successo sia la fonte della felicità. Si lavora una vita non per sé, ma per apparire in pubblicità. E quando poi tutto finisce e ti ritrovi da solo nello specchio, non crederai di essere migliore, se invece che spazzino ora fai l'attore. La tua vita sembra agli altri così grandiosa, ma nasconde vuoti indefiniti. Tu cerchi gioia nell'isola famosa, ma attento, gli attimi sono finiti. E da vecchio, mentre guardi la tua vita che è scorsa in un batter d'ali, troverai piuttosto nel regalo di una rosa che nel successo quanto tu vali. Ma tu ti ostini e non capisci e continui stremato a sudare, non per te stesso ma per un posto nel bagaglino domenicale. L'arte non è nata per la TV, non è qualcosa che si piega per la gente, è qualcosa agli schemi indifferente, non si fa legare, la devi seguire tu. Spiega finalmente le tue ali e corri a riprendere il tempo andato, la felicità che provi è quanto vali, il futuro non vada sprecato. E allora felici di